I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Torniamo a parlare di inflazione e soprattutto di inflazione cattiva. Il dato diffuso ieri, infatti, pur essendo preliminare, va assolutamente sulla stessa scia di quello già ricevuto a gennaio, ossia una crescita dei prezzi al consumo, che nel caso di febbraio significa livello più alto come crescita dei prezzi al consumo da 4 anni, l'1,5%. Ma per l'appunto quello che preoccupa di questa inflazione è il suo essere tra virgolette cattiva. Sappiamo infatti che l'inflazione è buona quando segnala un aumento dei consumi come conseguenza di un'economia più dinamica che spende di più, consuma di più e porta i prezzi a crescere più del previsto. È invece cattiva quando, a fronte di consumi stabili, per non dire in alcuni casi in calo, arriva da fenomeni esterni. Ed è questo il caso dell'inflazione anche a febbraio, dovuta principalmente ai beni energetici e ai loro derivati e ai mezzi di trasporto. In aggiunta, l'altra voce a fare schizzare l'inflazione, soprattutto a far alzare quella cosiddetta dei beni a maggior frequenza d'acquisto, il carrello della spesa, salito del 3,1%, sono stati i prezzi dei vegetali freschi. Se non si arriverà a un'inversione di tendenza nei prossimi mesi in quella che chiamiamo genericamente inflazione esterna o importata, la conseguenza sarà un'inevitabile erosione del potere d'acquisto e un conseguente calo ulteriore di alcuni consumi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il governo è pronto a mettere mano alla questione dei voucher, i buoni lavoro utilizzati per retribuire le piccole attività di tipo occasionale. La novità di oggi è che il governo sembra addirittura intenzionato a farlo in modo radicale, cioè escludendo dall'utilizzo dei voucher le imprese che hanno a disposizione altre tipologie di contratti di lavoro e consentendo l'utilizzo dei buoni alle sole famiglie per pagare ad esempio i collaboratori familiari o le babysitter con il tetto annuale di 7.000 euro per lavoratore. È stato il ministro del lavoro Giuliano Poletti a illustrare la posizione del governo. Poletti non solo ha ribadito che i voucher vanno cambiati, ma ha detto che appunto ne va drasticamente limitato l'uso. L'obiettivo del governo è ovviamente quello di evitare il referendum abrogativo dei buoni lavoro, referendum che a gennaio ha avuto il via libera della Corte Costituzionale, che si dovrebbe svolgere nei prossimi mesi. La data in realtà ancora non la conosciamo. Nei giorni scorsi erano circolate alcune ipotesi di correzioni, per esempio limitando i settori nei quali utilizzare i buoni lavoro o l'abbassamento dei limiti di utilizzo sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. La proposta emersa oggi rappresenta però una svolta che tutto sommato non appare così distante dall'obiettivo di chi aveva proposto il referendum, che poi è proprio quello di limitare il più possibile l'uso dei voucher lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.